tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat e Radio Collegate di Bologna e Genova, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Ricordiamo il nostro sito www.giordanobrunomi.wordpress.com con motore di ricerca. Il calendario anticlericale 2021 dedicato a Dante Alighieri nel 700° della morte è già in distribuzione. Richieste a info@sicilialibertaria.it. E abbasso il Papa, abbasso il Vaticano. E su Rai Storia questa settimana un ottimo servizio sulla monacazione forzata in un convento di Enrichetta Caracciolo, secolo XIX, che fu definitivamente liberata dai garibaldini e poté quindi abbandonare questa reclusione claustrale che le andava strettissima, tanto che scrisse poi un libro, proprio I misteri del chiostro napoletano o simile, per denunciare i crimini della monacazione forzata. Abbiamo poi dalla rivista Riforma dei Protestanti centinaia di chiese chiuse nel 2020 in Cina. Continuano i tentativi di controllo sulle religioni e chiusura di chiese in Cina. Sui misfatti del clero ricordiamo il caso di Cristina Golinucci, che fu uccisa dai frati di Cesena, in provincia appunto di Forlì Cesena. E su Giallo appunto c'è un ampio articolo, si ricorda il sospettato, era un tizio che era ospitato nel convento, purtroppo i frati l'hanno fatta franca e il corpo della povera ragazza, la cui macchina è stata rinvenuta davanti al convento, il corpo, dicevamo, non è mai stato più ritrovato. Gesuiti spagnoli, dossier sugli abusi, perfino il giornale clericale L'Avvenire riconosce che 81 minori e 37 adulti sono stati stuprati dai bravi gesuiti spagnoli, altro che preghiere. Anche il settimanale online settimananews.it, gesuiti spagnoli riconoscere per guarire, e la prima indagine organica sugli abusi sessuali da parte di un ordine religioso in Spagna. Le province dei gesuiti hanno pubblicato un rapporto sugli abusi. Tra il 1927 e il 2020 hanno subito violenze, appunto, come dicevo, 81 minori e 37 adulti, i soliti preti pedofili. Provocazione degli anti-abortisti, tensione davanti al San Gerardo di Monza. Su Repubblica del 30 gennaio 2021, pagina 5. Un medico specializzando è stato accerchiato da 7 attivisti di un gruppo contro la 194 che manifestava all'ospedale di Monza. Sull'episodio accertamenti dei carabinieri. Le solite provocazioni clericali. A 40 anni dalla legge ancora troppi ostacoli al diritto delle donne di gestire il proprio corpo. Intervista a Daniela Fantini, ginecologa. L'altra Polonia in piazza contro il ritorno al Medioevo. Varsavia non si arrende alla legge oscurantista medievale clericale sull'aborto appena entrata in vigore, dal manifesto del 29 gennaio 2021. Grande foto, la manifestazione a Varsavia contro la legge sull'aborto. Migliaia di donne in strada dopo la decisione del tribunale filogovernativo. Anche il Fatto Quotidiano dà ampio spazio a queste grandi manifestazioni anticlericali. Parliamo della pagina esteri, pagina 16 del Fatto Quotidiano di venerdì 29 gennaio 2021. Non solo donne, aborto, rivolta contro Kaczynski. Diritto di scelta. Proteste verso il leader di Diritto e Giustizia per la legge che vieta l'interruzione di gravidanza e la decadenza dello Stato. Grandi foto anche qui, manifestazioni numerose non c'erano dal 1980 in Polonia. Abbiamo poi abusi in seminario in Lazio, rischio processo per Don Martinelli dall'ANSA.it. ANSA Roma 18 gennaio, rischio processo anche davanti al Tribunale di Roma per Don Martinelli, accusato di presunti abusi commessi al preseminario San Pio X in territorio Vaticano. Speriamo in una sentenza esemplare. convento degli orrori in Germania. Le suore vendevano i bambini ai pedofili, da www.informazione.it, 1 febbraio 2021. Tutto avveniva con la complicità delle suore, che non solo fornivano i bambini, ma in alcune circostanze avrebbero persino servito bevande a chi partecipava a queste violenze sessuali di gruppo. Tra gli anni 60 e 70 le suore di un convento tedesco sulle rive del Reno hanno fornito ragazzini fragili ai preti pedofili e ai loro amici, i soliti preti. Prete, se lo conosci, lo eviti. E passiamo al calendario anticlericale 2021. Per ogni giorno dell'anno un misfatto commesso dalla Chiesa. 8 febbraio 2020. Durante l'esorcismo abusò di una minore, 12 anni di carcere, a un ex prete di Caserta. 9 febbraio 2019, in Kerala, India, il vescovo è arrestato perché stuprava le suore, classico. 10 febbraio 2020, fulmine anticlericale, c'entra una chiesa in Mozambico, 9 fedeli morti e 5 feriti. 11 febbraio 2019, si innamora di una donna, parroco di Cerano Novara, getta la tonaca alle ortiche, bravissimo. 12 febbraio 2019, a Chihuahua in Messico, due preti arrestati per stupro e abusi sessuali su minori. Prete, se lo conosci, lo eviti. 13 febbraio 2019, la Pia Mafia. A Catania le processioni sono gestite dalla criminalità, che ordina percorso, tempi e soste davanti alle case degli arrestati e ai domiciliari. 14 febbraio 2019, la diocesi di Brooklyn, Stati Uniti, pubblica nominativi di ben 108 preti pedofili. Passiamo al dizionario di terminologia atea, demonizzazione. Politica clericale, volta ad accreditare una presunta natura diabolica a tutti i loro nemici, atei, ebrei, eretici, eccetera. Discorso ateo, secondo Costanzo Preve, il filosofo, presenta due varianti complementari e convergenti. Discorso scientifico positivistico, che insiste sull'evoluzionismo darwiniano basato sulla selezione della specie, la dinamica della casualità, ma anche la necessità statistica. E il discorso umanistico-naturalistico, basato sull'autosufficienza passionale, immaginativa, intellettuale, eccetera. Passiamo ad alcuni detti anticlericali. Iniziamo da Epicuro, 341-270 a.C., Dio o vuole togliere i mali del mondo e non può, o può e non vuole, o non vuole e ne può, o vuole e può. Se vuole e non può è impotente, il che non può essere di Dio, che dovrebbe essere onnipotente, sennò che Dio è. Se può e non vuole è invidioso, il che del pare è contrario a Dio. Se ne vuole e ne può è invidioso e impotente, perché non è Dio. Se vuole e può, ciò solo conviene a Dio. Da dove dunque viene l'esistenza dei mali e perché non li toglie? Fra i confessori imperano le frodi, poiché essi sostengono e hanno gran cura dei peccati dei grandi di questo mondo. Essi fanno ciò per ottenere benefici, ricchezze, protezione o per la soddisfazione della loro pancia. John Wycliffe, eretico inglese, 1328. La Roma papale è un abominevole bordello. Così disse Giovanni Calvino, eretico francese, 1509-1564. Riuscì a morire di vecchiaia solo fuggendo nella città-stato di Ginevra. Bene, saluti a tutti e alla prossima puntata del notiziario ateo anticlericale.